Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Il degno merciaio, non appena rientrato a casa, aveva partecipato alla moglie il suo felice ritorno e questa gli aveva risposto per rallegrarsene e per dirgli che il primo istante che avesse potuto sottrarre ai suoi doveri sarebbe stato interamente consacrato a rendergli visita. Quel primo istante s'era fatto attendere 5 giorni, il che, in tutt'altra circostanza, sarebbe parso lunghetto a padron Bonacieux. Ma sulla sua visita al cardinale e su quella lui fatta da Rochefort aveva ampia materia di riflessione e, come si sa, niente fa passare il tempo quanto riflettere. Tanto più che le riflessioni di Bonacieux erano tutte rosee. Rochefort lo chiamava il suo amico, il suo caro Bonacieux, e gli ripeteva continuamente che il cardinale aveva di lui una grande considerazione. Il merciaio si vedeva già sulla strada degli onori e della ricchezza. Dal canto suo, Madame Bonacieux aveva meditato, ma bisogna dirlo, su tutt'altro che sull'ambizione. Suo malgrado, oggetto costante dei suoi pensieri, era stato quel bel giovane così coraggioso e che sembrava tanto innamorato. Sposata a 18 anni a Bonacieux, vissuta sempre tra gli amici del marito poco adatti a suscitare una qualsiasi attrazione in una giovane donna, i cui sentimenti erano più elevati della sua condizione, Madame Bonacieux era rimasta insensibile alle seduzioni volgari. Ma soprattutto a quei tempi i titoli esercitavano un grande fascino sulla borghesia e D'Artagnan era nobile. Inoltre portava l'uniforme delle guardie che, dopo quella dei moschettieri, era dalle dame la più apprezzata. Parlava d'amore come un uomo che ama e ha sete d'essere amato. Ce n'era più di che far girare una testa di 23 anni e Madame Bonacieux era proprio giunta a quella felice stagione della vita. I due sposi, per quanto non si fossero veduti da più di 8 giorni, e gravi eventi fossero accaduti a entrambi in quella settimana, si abbordarono con una certa preoccupazione. Tuttavia Bonacieux manifestò una reale contentezza e si avvicinò alla moglie a braccia aperte. Madame Bonacieux gli presentò la fronte. «Discorriamo un poco», diss'ella. «Come?» fece il marito stupito. «Ma sì, ho da dirvi una cosa importantissima». «E di che si tratta? Della mia prigionia? Lasciamo perdere la vostra prigionia e torniamo a ciò che mi conduce da voi. Ma come? Ciò che vi conduce da me non è il desiderio di rivedere un marito dal quale siete separata da 8 giorni?» chiese il merciaio appunto sul vivo. «Questo prima di tutto e poi anche altro. Parlate. Una cosa del massimo interesse e dalla quale forse dipende il nostro avvenire. Il nostro avvenire ha mutato completamente aspetto dall'ultima volta che vi ho vista, Madame Bonacieux, e non mi stupirei se fra qualche mese suscitasse l'invidia di molta gente. Sì, soprattutto se vorrete seguire le istruzioni che vi darò. A me? Sì, a voi. C'è una buona e santa azione da compiere, signore, e al tempo stesso molto denaro da guadagnare». Madame Bonacieux sapeva che, parlando di denaro al marito, lo prendeva dal lato debole. Ma un uomo, fosse anche un merciaio, se ha chiacchierato 10 minuti con il cardinale Richelieu, non è più lo stesso uomo. «Molto denaro da guadagnare?» disse Bonacieux, allungando le labbra. «Sì, molto. Che cosa bisogna fare? Partirete immediatamente. Vi consegnerò un foglio da cui non vi separerete per nessun motivo e lo consegnerete personalmente nelle mani del destinatario. E per dove devo partire? Per Londra. Ma via, scherzate, non ho affari a Londra. Una persona illustre vi manda, una persona illustre vi aspetta, la ricompensa oltrepasserà i vostri desideri. Ecco quanto posso promettervi. Ancora intrighi, sempre intrighi. Grazie, ma adesso diffido e il cardinale mi ha illuminato in proposito. Il cardinale? Esclamò Madame Bonacieux. Avete veduto il cardinale? Mi ha fatto chiamare, rispose fiero il merciaio. E avete aderito al suo invito, imprudente che non siete altro? Devo dire che non avevo scelta di andarci o no, perché stavo fra due guardie. Devo anche aggiungere che, siccome allora non conoscevo Sua Eminenza, se avessi potuto dispensarmi dalla visita, ne sarei stato lietissimo. Allora vi ha maltrattato, vi ha minacciato, mi ha teso la mano e mi ha chiamato suo amico, capite signora, sono l'amico del gran cardinale, del gran cardinale. Gli contestereste per caso questo titolo? Non gli contesto nulla, ma vi dico che il favore di un ministro è effimero e che bisogna essere pazzi per legarsi a un ministro. Ci sono poteri al di sopra del suo che non poggiano sul capriccio d'un uomo o sull'esito di un avvenimento. A questi poteri bisogna legarsi. Mi dispiace, signora, ma non conosco altro potere che quello del grande uomo che ho l'onore di servire. Voi servite il cardinale? Sì, signora. E in qualità di suo servitore non permetterò che voi vi abbandoniate a complotti contro la sicurezza dello Stato e che serviate gli intrighi di una donna che non è francese ed è di sentimenti spagnoli. Per fortuna c'è il grande cardinale e il suo occhio vigile sorveglia e penetra fino in fondo ai nostri cuori. Bonacieux ripeteva parola per parola una frase sentita dire dal conte di Rochefort, ma la povera donna che aveva contato sul marito e con tale speranza aveva risposto di lui alla regina, rabbrividì. «Ah, siete cardinalista, signore!» esclamò. «Servite il partito di quelli che malmenano vostra moglie e insultano la vostra regina. Gli interessi privati non sono nulla di fronte a quelli di tutti. Io sono per coloro che salvano lo Stato», disse con enfasi Bonacieux. «E sapete che cos'è lo Stato di cui parlate?» disse con una scrollata di spalle Madame Bonacieux. «Accontentatevi di essere un borghese senza malizia e schieratevi dalla parte di chi vi offre maggior vantaggio». Fece Bonacieux picchiando su una borsa rigonfia che emise un suono argentino. «Che ne dite, signora predicatrice? Di dove viene questo danaro? Dal cardinale? Da lui e dal mio amico, il conte di Rochefort. Il conte di Rochefort? Ma è stato lui a rapirmi? Può darsi, signora. E prendete danaro da quell'uomo? Non mi avete detto che quel rapimento era politico e basta? Sì, ma quel rapimento aveva lo scopo di farmi tradire la mia signora, di strapparmi con le torture confessioni che avrebbero potuto compromettere l'onore e forse la vita della mia augusta padrona. Signora, ribatté Bonacieux, la vostra augusta padrona è una perfida spagnola e quel che il cardinale fa è ben fatto. Signore, rispose la giovane donna, vi sapevo vile, avaro e imbecille, ma non vi sapevo infame. Signora, disse Bonacieux, che non aveva mai veduto sua moglie infuriata e che dinanzi all'ira coniugale retrocedeva. Signora, che dite mai? Dico che siete un miserabile, continuò Madame Bonacieux, accorgendosi di prendere un certo ascendente sul marito. Ma che esigete da me? Avanti, ve l'ho detto, che partiate all'istante, signore, che adempiate lealmente l'incarico che mi degno d'affidarvi, e a questo patto dimentico tutto, vi perdono, e per di più, gli tese la mano, vi restituisco il mio affetto. Bonacieux era poltrone e avaro, ma amava la moglie. Un uomo di 50 anni non tiene a lungo rancore a una donna di 23. Madame Bonacieux lo vide esitare. «Allora, siete deciso?» chiese. «Ma, mia cara, riflettete un po' su ciò che esigete da me. Londra è lontana da Parigi, molto lontana e forse l'ambasciata di cui mi incaricate non è senza pericoli. Che importa se li eviterete? Ecco, Madame Bonacieux, disse il merciaio, ecco, decisamente rifiuto. Gli intrighi mi fanno paura. Ho veduto la Bastiglia io. Brrr, che orrore la Bastiglia! Solo a pensarci mi viene la pelle d'oca. Hanno minacciato di torturarmi. No, decisamente non ci andrò, santo cielo. Perché non ci andate voi stessa? Perché davvero credo di essermi sbagliato sul vostro conto fino ad oggi. Credo che siate un uomo e dei più indiavolati. E voi siete una donna, una miserabile donna, stupida e abbrutita. Ah, avete paura. Ebbene, se non partite immediatamente, vi faccio arrestare per ordine della regina e vi faccio chiudere in quella Bastiglia che vi spaventa tanto. Bonacieux si immerse in una profonda riflessione. Pesò ponderatamente nel suo cervello le due collere, quella del cardinale e quella della regina. Prevalse di gran lunga la prima. «Fatemi arrestare per ordine della regina», concluse, «e io mi appellerò a sua eminenza». Questa volta Madame Bonacieux si accorse di essere andata troppo oltre e fu spaventata di essersi spinta tanto avanti. «Ebbene sia», disse. «Forse, in fin dei conti, avete ragione voi. Un uomo la sa più lunga delle donne in politica, e voi, soprattutto, monsieur Bonacieux, che avete conversato con il cardinale. Tuttavia è duro», soggiunse, «che mio marito, un uomo sul cui affetto credevo di poter contare, mi tratti tanto sgarbatamente e non soddisfi un mio capriccio». «Ci rinunzierò», disse con un sospiro la giovane donna. «Non parliamone più. Se perlomeno mi diceste che cosa dovrei andare a fare a Londra», soggiunse Bonacieux, il quale un po' tardi si ricordava che Rochefort gli aveva raccomandato di tentare di carpire i segreti della moglie. «È inutile che lo sappiate», rispose questa, che per una diffidenza istintiva adesso indietreggiava. «Si trattava di una sciocchezza, di quelle che piacciono alle donne, di un acquisto sul quale c'era da guadagnare parecchio». Ma più la moglie si schermiva, più Bonacieux ritenne che il segreto che ella si rifiutava di confidargli fosse importante. Decise quindi di precipitarsi immediatamente dal conte di Rochefort e di comunicargli che la regina cercava un messaggero da inviare a Londra. «Scusate se vi lascio, mia cara», disse, «ma non sapendo che sareste venuta a trovarmi, avevo preso un appuntamento con un mio amico. Non appena mi sarò sbrigato, verrò a prendervi, e poiché comincia a farsi tardi, vi riaccompagno al Louvre». «Grazie, signore», rispose Madame Bonacieux. «Non siete abbastanza coraggioso per essermi utile in qualcosa, e me ne tornerò al Louvre sola soletta». «Come vorrete, Madame Bonacieux», rispose l'ex merciaio. «Vi rivedrò presto?» «Certamente. La settimana prossima spero che il servizio mi lascerà un po' di libertà, e ne approfitterò per tornare a riordinare un po' le nostre cose, che devono essere piuttosto sottosopra». «Benissimo, vi aspetterò». Bonacieux baciò la mano a sua moglie e si allontanò in fretta. «Ecco», commentò Madame Bonacieux, quando il marito ebbe richiuso il portone e si trovò sola, «a quest'imbecille non gli mancava che d'essere cardinalista. E io, che avevo dato la parola alla regina, io, che avevo promesso la mia povera signora, ah, Dio mio, mi giudicherà una di quelle miserabili di cui il palazzo formicola e che le hanno messo alle costole per spiarla. Ah, Bonacieux, non vi ho mai amato granché. Adesso, peggio ancora, vi odio. E parola, me la pagherete». Nel momento in cui diceva queste parole, un colpo battuto sul soffitto le fece alzare il capo e una voce che le giunse attraverso l'impiantito le gridò: «Cara Madame Bonacieux, apritemi la porticina dell'andito e scendo da voi!» signora, disse D'Artagnan entrando alla porta che la giovane donna gli apriva, lasciate che ve lo dica, avete proprio un tristo marito. Allora avete udito la nostra conversazione, chiese agitata Madame Bonacieux, guardando con inquietudine D'Artagnan, dalla prima parola all'ultima. Ma come, mio Dio, con un mezzo a me noto che mi ha permesso anche di sentire la conversazione più animata avuta da voi con gli sbirri del cardinale. E cosa avete capito dalle nostre parole? Mille cose. Prima di tutto, che vostro marito è un babbeo e uno sciocco, per fortuna. Secondo, che eravate nei pasticci, il che mi fa molto piacere e mi dà l'occasione di pormi al vostro servizio, e Dio sa se sono pronto a buttarmi nel fuoco per voi. Infine, che la regina ha bisogno di un uomo coraggioso, intelligente e devoto che faccia per lei un viaggio a Londra. Ho almeno due delle tre qualità che vi occorrono. Ed eccomi qua. Madame Bonacieux non rispose, ma il cuore le batteva di gioia e una segreta speranza brillò nei suoi occhi. «E quale garanzia mi darete, chiese, se acconsento ad affidarvi tale missione?» «Il mio amore per voi. Su, dite, ordinate, che bisogna fare?» mio Dio», mormorò la giovane, «devo confidarvi un simile segreto, signore. Siete quasi un ragazzo. Su, via, vedo che vi ci vuole qualcuno che garantisca di me. Ammetto che ciò mi rassicurerebbe molto. Conoscete Monsieur de Tréville, il capitano dei moschettieri del re? Oh sì, quello lo conosco, non personalmente, ma per averne sentito parlare più di una volta dalla regina come di un valoroso e leale gentiluomo. Non temete che lui vi tradisca per il cardinale, vero? Oh no, di certo. Allora rivelategli il vostro segreto e chiedetegli, per quanto importante, prezioso, tremendo sia, se potete confidarmelo. Ma questo segreto non mi appartiene e non posso rivelarlo così. Pure stavate per confidarlo a Bonacieux, disse D'Artagnan indispettito, come si affida una lettera al cavo di un albero, all'ala di un piccione, al collare di un cane. Eppure io lo vedete, vi amo. Lo dite, sono galantuomo, lo credo, sono coraggioso, oh, di questo sono certa. Allora, mettetemi alla prova. Madame Bonacieux guardò il giovane, trattenuta da un'ultima esitazione. Ma negli occhi di lui c'era un tale ardore, nella voce una tale persuasione, che si sentì trascinata a fidarsene. E poi confessiamolo, il sentimento involontario che la provava per quel giovane protettore la convinse a parlare. «Sentite», gli disse, «mi arrendo alle vostre affermazioni e cedo alle vostre promesse, ma vi giuro davanti a Dio che ci ascolta, che se mi tradite e i miei nemici mi lasciano in vita, io mi ucciderò accusandovi della mia morte. E io vi giuro davanti a Dio, signora», affermò D'Artagnan, «che se verrò preso nell'adempimento degli ordini che mi darete, morrò prima di fare o dire qualcosa che comprometta qualcuno». Allora la giovane gli confidò il terribile segreto che il caso gli aveva già in parte rivelato di fronte alla Samaritaine. Fu la loro reciproca dichiarazione d'amore. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.